Se dovessi trovare un motto per te o per altra gente, quale sarebbe la sua frase? Non mollare mai e inseguire i propri sogni. Ottimismo, ottimismo e sorriso. E andare avanti, sempre, comunque. Cosa la rende felice nei momenti di difficoltà? Pensare positivo, quando ci riesco. Ogni persona che si incontra può dare qualcosa, bisogna ascoltarle. Come si dice, chi trova un amico trova un tesoro. Un motto, fatevi aiutare e tiratevi su da soli. O chiedete l'aiuto per tirarvi su. Lei ha detto di sentirsi diverso, ma è stata proprio questa sua diversità che l'ha portata a non mollare mai e a fare i successi che ha avuto. E coraggio, sempre avanti, mai abbattersi e sempre avanti, come ha detto lui, sempre avanti. Bene, sono intelligente. Ecco, è stata una bellissima frase.